con questa puntata che ha per titolo Gianfranco Manfredi, cantautore e fumettista. Gianfranco Manfredi è scomparso il 24 gennaio all'età di 76 anni, è stata una figura straordinaria, e nel titolo abbiamo scelto di evidenziare questi due aspetti, cantautore e fumettista, perché su questi ci concentreremo di più nel corso della puntata di oggi, perché Gianfranco Manfredi in realtà è stato molto altro, perché è stato anche saggista, è stato anche romanziere, autore di programmi televisivi, sceneggiatore per il cinema, di tutto di più. In una vita è riuscito a fare una quantità di cose davvero ragguardevoli. Ci concentreremo su questi due aspetti, e infatti abbiamo cominciato con una canzone. Beh, la musica è stata un po' soprattutto al centro della prima parte della sua carriera, anche se poi è apparsa in altri momenti, ovviamente non l'aveva abbandonato, mentre invece la produzione fumettistica è stata più ha occupato di più gli ultimi circa 30 anni, 35, della sua attività. E questa canzone del 1976 è stata un po' un inno del 77, bellissima, elusiva, non dice quello che alla fine c'è e non c'è. E possiamo ricordare come aneddoto che è stato anche il titolo di un corposo saggio di circa 500 pagine pubblicato nel 2017 circa dall'agenzia X di Marco Filopat, col sottotitolo 1977, l'anno del Big Bang. E questo, se vuoi, è anche un po' una conferma di come quella canzone è rimasta indelebilmente legata a quel periodo. Sì, sì. Ma non è una malattia, era il titolo di quell'album, il secondo dell'anno 76 di Manfredi, che aveva cominciato nel 72 con La Crisi, due album molto segnati dal lungo 68 e dalla sua esperienza tra movimento studentesco, autonomia, operaia, ma anche gli studi in filosofia, che lui si è laureato proprio nella prima metà degli anni 70, e è molto presente, come anche insomma tutto il mondo della sinistra extraparlamentare, con un tocco ironico, ma sempre attento al politico e al sociale, come avete potuto anche cogliere da questo brano. Banzo, bando alle ciance, andiamo subito in merito anche per introdurre il nostro ospite, perché per parlare di questo lato fumettistico, ma non solo, di Gianfranco Manfredi, avremo con noi Roberto Guarino di Alla Galla, che ha collaborato con lui per tanti anni. E ci andiamo ad ascoltare ora un brano che proprio è della metà degli anni 80, è praticamente inedito e ci riporta proprio in medias res nel Manfredi fumettista. Esatto, un brano del 1985 che apparteneva allo spettacolo teatrale Che fine ha fatto Babilonia, questa commedia musicale di e con Ricky Gianco e Gianfranco Manfredi. Ricky Gianco è un personaggio che non si può non citare parlando di Manfredi, lunghissima collaborazione fra i due. E cioè, quello incentrato questo spettacolo sulla ricerca di questa Babilonia, un'entità astratta e sfuggente. E nel corso dello spettacolo, che comprendeva 35 canzoni, c'è anche questa dedicata a Tex, si intitola proprio Tex, ed è una chicca perché non tutte le canzoni dello spettacolo furono pubblicate su disco. Questa rimase inedita ed è stata pubblicata solo nel luglio 2023 nel primo numero della newsletter mensile Boiler, che Manfredi curava, ed è tuttora attiva, la sta curando Diana Manfredi, una delle sue figlie, con la quale abbiamo parlato, ci ha dato l'autorizzazione a trasmettere il brano. La vogliamo anche ringraziare per appunto questo dialogo che ci ha permesso di stabilire i consigli e la collaborazione. E allora noi ce la diamo a sentire Tex, appunto, di Gianfranco Manfredi, e poi chiacchieriamo un po' con Roberto Guarino. Questa canzone è dedicata a tutti quelli che, come me, vogliono tutto e subito, o magari anche niente, ma subito lo stesso. Qui ci vorrebbe un uomo, uomo che non c'è, che non avesse dubbi sugli altri e su di sé, e che a farsi obbedire gli basti dire uè. Qui ci vorrebbe un uomo come Tex, perché Tex, il nemico, sa sempre da che parte sta, politicanti, puzzole e figli di papà, di Bibbia e psicanalisi non ne sa neanche un po', le uniche risposte le dà Tex, ti chiamiamo Tex, ti aspettiamo, sei l'ultimo modello al quale ci ispiriamo. Proteggi la riserva, uccidi quei maiali, purtroppo io non posso perché porto gli occhiali. Stanco di vivere, ti tolgo la pelle e te la faccio mangiare cruda. Ti rompo tutte le ossa e ti faccio uscire attraverso il buco della serratura. C'è un unico problema, Este, come lo sai, è che Tex sarà anche un duro, però non scopa mai. E se una volta almeno lui si è fatto una cartina, c'era solo tabacco eppure senza nicotina. Ma Tex, ti chiamiamo, Tex, ti aspettiamo, avrà sbagliato Stalin, ma di te ci fidiamo. Ti scrivo questa lettera per dirti che ti penso, purtroppo non ti vengo dietro, a me il sangue mi fa senso. E abbiamo con noi Roberto Guarino di Alla Galla per parlare di fumetti ma anche di musica, a partire da una figura che noi amiamo molto qui a Zibaldone e che, come dicevamo, purtroppo ci ha lasciato da poco, Gianfranco Manfredi. Innanzitutto, Roberto, benvenuto a Zibaldone, buon pomeriggio, un piacere averti con noi. Buon pomeriggio a voi. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ascolta, Roberto, cominciamo con una domanda che ha a che fare, appunto, la musica e il mondo dei fumetti, perché spesso sono due realtà, no, che non sono proprio sovrapponibili negli appassionati, ma anche, insomma, in chi produce, per usare un termine un po' brutto, tanto, diciamo, le graphic novel, i fumetti, come le canzoni, la musica, e cose che succedono anche a volte per altri generi. O altre discipline. Tu conoscevi ed apprezzavi il Manfredi cantautore, e se è così, c'è qualche brano che ami o hai amato di più? Ma sì, cioè, lo conoscevo, lo apprezzavo. Forse il brano che ho apprezzato di più si intitola Parigi con le gambe aperte. L'ha scritto lui con Ricky Gianco ed è stato un duetto con Gino Paoli di qualche anno fa. Una canzone, secondo me, molto bella, malinconica, però anche allegra. Insomma, secondo me, una delle sue canzoni più belle. Poi vabbè, lui ha scritto talmente tanto, anche ha scritto per Mina, insomma, quindi è un grande. Però devo correggerti su quello che dicevi prima sul legame tra il fumetto e la musica, perché in fondo ci sono sono in qualche modo collegati, perché gli artisti sono comunque, hanno una comunione di sentimenti. Ad esempio, in Italia il decano, insomma, degli esperti, dei critici, insomma, di fumetti e di musica, si chiama Vincenzo Mollica, e lui ha frequentato sempre entrambi questi mondi. C'è un disco di un cantautore, anche lui scomparso diversi anni fa e oggi forse ingiustamente un po' dimenticato, che si chiama Sergio Endrigo, e lui negli anni '80, ad esempio, ha fatto un disco che si intitola Mari del Sud, che non solo ha la copertina disegnata da Ugo Pratt, cioè Corto Maltese in copertina, ma addirittura una canzone di questo disco è stata scritta da Ugo Pratt, si chiama Pandora, e fa riferimento proprio a uno dei personaggi di Ugo Pratt. E poi c'è comunque tutta questa frequentazione del mondo del fumetto da parte della musica, non so, Vecchioni, copertine realizzate da Pazienza, eccetera. Quindi direi che il mondo del fumetto e quello della musica si sono sempre parlati. Fra l'altro, Roberto Vecchioni è un grande collezionista di fumetti. quindi di tavole originali, eccetera. Quindi, però diciamo che questi... questo è vero, perché poi tutto il mondo del Tenco, da Staino a Pazienza, no, certo, ha sempre seguito, e Mollica, come tu dicevi. Però quello che a noi sembrava interessante era proprio la figura di Manfredi, anche come, no, in fin dei conti, cantautore, che poi a un certo punto della sua vita decide anche di aprirsi appunto ai fumetti, e poi negli ultimi tre decenni praticamente della sua vita diventa l'attività quasi centrale, no? Quindi era proprio la figura di Gianfranco, in questo senso, una grande particolarità, forse. Sì, Gianfranco praticamente, come ha detto qualcuno, è un po' come Ulisse, uomo di multiforme ingegno. Quindi lui effettivamente ogni fase della sua vita è stata caratterizzata da un'attività un po' diversa. L'attività universitaria, lo studio, che poi comunque ha continuato per tutta la vita a frequentare, l'attività di musicista, poi è stato anche regista, attore, ha fatto... e poi passare i romanzi, i saggi, a me, sai, che poi... a me ricorda un po' Davide Riondino in questa eterogeneità, appunto, di dedicarsi a... all'ennesima potenza, però, perché Riondino, insomma, non ha avuto forse così fortuna in tutti questi generi. E poi un uomo di una curiosità e di una cultura incredibile. Per noi di Alla Galla, ad esempio, ha pubblicato un saggio bellissimo su Tarzan, che è uscito l'anno scorso, dove lui ripercorre tutti i romanzi scritti da Edgar Rice Burroughs, e ci sono oltre 300 pagine dedicate ai romanzi, dove lui sviscera con approfondimenti incredibili tutti i film di Tarzan, tutti i film, diciamo così, apocrifi, tratti non autorizzati, che sono stati fatti in varie parti del mondo, e poi il fumetto, eccetera. E adesso ci ha lasciato, mi ha lasciato l'edizione definitiva di un saggio che ha scritto sul cinema delle scimmie. Cioè tutti, da King Kong al pianeta delle scimmie, si è visto negli ultimi anni centinaia e centinaia di film, moltissimi anche orrendi, però con qualche motivo di interesse, comunque collegati al mondo delle scimmie. Quindi veramente un uomo di multiforme ingegno. È una domanda più specifica sulla novità editoriale più recente, che legata al nome di Gianfranco Manfredi, anche una delle più recenti di Alla Galla. Cioè, vorrei parlare del diario di Adelaide, questa graphic novel. Diario di Adelaide, sì, è stata... è un'opera a cui tengo molto. Insomma, quest'anno era il 2025, sono 20 anni dalla morte di Adelaide Aglietta, che purtroppo è una donna un po' dimenticata, credo, che non so quanti la conoscano. Comunque Adelaide Aglietta è stata il primo segretario di un partito donna, segretario del Partito Radicale. Ha fatto tantissime cose nella sua vita politica, tra l'altro una vita anche piuttosto, diciamo, avventurosa. Cioè, lei nasce nella buona borghesia torinese, a un certo punto della sua vita decide di lascia la famiglia, insomma il marito, e si dedica a questa vita politica, eccetera. Trova anche modi inediti di rappresentare la politica, di finanziarla, partecipa a una pubblicità il cui ricavato va a finanziare il Partito Radicale. E volevamo, perché io sono, insomma, legato un po' a questo mondo politico, anche oltre a occuparmi di fumetti, e quindi con un'associazione che è intitolata torinese, che è intitolata lei, abbiamo proprio pensato che bisognava fare qualcosa per celebrarla, e che cosa meglio di un fumetto. E subito si è pensato chi poteva realizzare questo fumetto, e io ho pensato subito a Gianfranco, che sono amico, sono, perché lo considero ancora quasi vivo, sono amico da tanti anni. Ho pensato che lui, con la sua esperienza, potesse essere la persona ideale per occuparsi di questa cosa, perché lui ha vissuto quegli anni in prima persona. Ah, dimenticavo, la vita di Adelaide Aglietta a fumetti era impossibile, però Adelaide Aglietta ha fatto una cosa incredibile nella sua vita. È stata estratta a sorte come giurato popolare nel processo storico alle Brigate Rosse proprio a Torino. Erano gli anni proprio del terrore in cui le Brigate Rosse imperversavano, non volevano essere processate, sparavano agli avvocati nominati d'ufficio per difenderli, non volevano che il processo andasse avanti e non si trovavano appunto giudici popolari per giudicarli. Lei con estremo coraggio sapeva i rischi che correva, ma riteneva che fosse un dovere civile accettarlo, e proprio la sua accettazione della carica ha permesso che anche altri dicessero di sì e si potesse celebrare questo processo. Lei doveva cambiare casa ogni sera perché i terroristi proprio in quei mesi colpivano, avevano minacciato di uccidere proprio lei. Ogni sera cambiava casa, eccetera. E da questa esperienza nel processo lei ha scritto un diario che si chiama appunto Diario di una giurata popolare nel processo alle Brigate Rosse, e ci sembrava che fosse proprio lo spunto ideale per un graphic novel. E così Gianfranco ha preso questo libro di Adelaide e ne ha tratto un fumetto che ricostruisce mirabilmente quegli anni, tutta questa atmosfera cupa di terrore, lei comunque con la speranza che porta, e credo che sia una lettura bellissima, imprescindibile, soprattutto per chi quegli anni non li ha vissuti, proprio per ritornare in quel periodo e non dimenticare, insomma. Quindi proprio è riuscito, è stato bravissimo. E sono stati anche molto bravi gli autori dei disegni, che sono due quasi esordienti, Alessandro Ravera e Marta De Vincenzi, che si sono messi d'impegno con tutto il materiale che Gianfranco ha fornito loro, perché lui ha fornito una documentazione incredibile, foto d'epoca, vignette, satiriche, ad esempio quelle di Forattini, cioè, che è inserito nella storia fumetti, e quindi loro che quegli anni non li hanno vissuti, sono riusciti a ricreare questo periodo. Lui era molto soddisfatto del risultato. Un'altra cosa che vorrei chiederti sul periodo storico del diario di Adelaide, che è, appunto, essendo un'opera che parla della fine degli anni 70, è in certo qual senso in continuità con un'altra opera di Gianfranco Manfredi, che è Caccisciolti, certo, che aveva pubblicato la Bonelli qualche anno fa. Purtroppo, che io sappia, non è arrivato a completamento. Io ne ero un avido lettore perché sapevo che Manfredi avrebbe trattato molto bene quel periodo, quindi volevo chiederti, ecco, come vedi tu questa questione della continuità, perché Caccisciolti parte appunto dal 68 ed è anche un periodo, sia il 68 che ovviamente gli anni 70, che Gianfranco Manfredi aveva vissuto in prima persona come cantautore, come testimone, come militante in quel periodo. Quindi, insomma, volevo chiederti come pensi che lui abbia rielaborato questa esperienza a livello artistico, cosa pensi di Caccisciolti e come si collegano le due opere, se c'è un collegamento. No, beh, certo, Caccisciolti è stata comunque l'opera che mi ha fatto pensare subito a Gianfranco Manfredi, perché in fondo si trattava di un'operazione analoga, ricostruire un periodo storico cercando però di fornire al tempo stesso una lettura documentata e avvincente. E secondo me Manfredi ci è riuscito benissimo. Purtroppo Caccisciolti, dal punto di vista editoriale, ha avuto una vita piuttosto travagliata, perché è nata come prodotto da edicola in un periodo in cui le edicole, tutta la produzione Bonelli comunque sono un po' in crisi, quindi hanno provato a spostarla in libreria, però la promozione secondo me è stata adeguata, ci sono storie sceneggiate che probabilmente non vedranno mai la luce. Hanno poi deciso anche una pubblicazione che non seguiva la cronologia, quindi Manfredi è rimasto un po' dispiaciuto da questa cosa, diciamo, da questo, dall'esito di questa serie a cui lui teneva molto, e in fondo Adelaide è un po' la continuazione di quella serie. E quindi, fra l'altro, stiamo lavorando perché io queste cose le faccio spesso con Matteo Pollone, che è un amico, anche lui un grosso esperto, insegna cinema all'università ma si occupa molto di fumetti, e stiamo realizzando anche con la collaborazione dell'Università di Bologna un volume dedicato al mondo del fumetto giallo, e con interviste ad autori, eccetera, e quindi stiamo intervistando un pochino tutti questi protagonisti. Abbiamo intervistato Claudio Nizzi, che ha scritto Nick Rider, Tex, eccetera, Gomboli di Diabolic, ma tantissimi, e fra cui Gianfranco Manfredi. Infatti l'ultima volta che l'ho visto è stato proprio in Valtellina, nella sua casa, un'intervista di 8 ore consecutive, interrotte anche durante il pranzo, è continuata la registrazione, dove lui ha parlato a tutto tondo della sua carriera e dicendo cose comunque molto interessanti e importanti. Quindi credo che nel 2026 questo libro vedrà la luce, magari poi ne riparleremo quando esce. Certo, no, molto interessante. Ma a proposito, prima ci parlavi anche di un altro progetto, un saggio, in quel caso quello su King Kong e le varie saghe del pianeta delle scimmie, no? Ma poi sappiamo che tra le uscite postume, diciamo, di opere manfrediane, avete annunciato come alla galla anche la riproposta di alcune delle migliori storie di Gordon Link, che fu il primo personaggio a fumetti ideato da Manfredi a inizio anni 90, no? All'epoca era per l'editrice Dardo. Insomma, ti volevo domandare un po' se ci puoi anticipare qualcosa anche sulla scelta delle storie e se Manfredi, per esempio, ha avuto tempo anche di essere coinvolto in questo progetto di ristampa. Sì, lui è stato coinvolto, nel senso che l'idea è stata sua. Lui diceva che Gordon Link, non tutte, ma alcune storie di Gordon Link meritavano di essere riproposte, e lui pensava alle storie, soprattutto quelle iniziali disegnate da Della Monica. Infatti aveva già parlato lui con Della Monica, e infatti uscirà un volume che comprenderà 5 storie di Della Monica, che sono considerate da Gianfranco le storie, insomma, più riuscite. Poi vediamo una riproposta integrale di Gordon Link, credo che in questo periodo non sia editorialmente sostenibile, ma questo volume senz'altro uscirà, avrà una copertina inedita, e ci crediamo molto, anche perché Gordon Link è stato poi il primo personaggio di Gianfranco a fumetti, e quello che l'ha fatto conoscere come autore di fumetti. Fra l'altro, una cosa interessante, perché Gordon Link doveva essere una serie televisiva, quindi lui aveva scritto l'episodio pilota come serie televisiva. Poi molto spesso succede in questo, nel mondo della televisione, del cinema, che certi progetti, magari portati avanti anche per diverso tempo, con investimenti anche in denaro e impegno di tempi, anche anni, poi a un certo punto non vedano la realizzazione, e lui ha avuto l'idea di proporlo a Casarotti, che era il patron della Dardo, e era il periodo in cui Dylan Dog incominciava ad avere grande successo, e in fondo il personaggio di Gordon Link in qualche modo ricorda un po' Dylan Dog, e quindi lui ha fatto questa ha pubblicato diversi numeri, insomma la serie aveva anche successo, tanto è vero che a un certo punto Sergio Bonelli l'ha chiamato e ha detto: ma perché non vieni a scrivere Dylan Dog? Ma ci sono, Roberto, delle peculiarità appunto anche in questo collegamento con Dylan Dog del personaggio di Gordon Link che secondo te meriterebbero di essere riscoperte? Beh, certo, comunque diciamo consciamente o inconsciamente Gordon Link deve molto a Dylan Dog, è diverso perché comunque è un personaggio, perché l'ironia di Gianfranco è diversa da quella di Tiziano Sclavi, quindi sono due personaggi diversi, però comunque nascono dallo stesso humus, questa rivisitazione dell'horror, la questione di chi è il mostro siamo noi, insomma certe tematiche sono insomma similari, forse quello era anche il periodo giusto perché queste storie, queste tematiche avessero successo. Infatti all'epoca Dylan Dog è diventato in pochi anni la serie di più grande successo della Bonelli. Sergio Bonelli aveva permesso a Sclavi di fare una sua serie così per amicizia, non avrebbe mai creduto a un successo così grande. Nel periodo di massimo successo Dylan Dog fra serie inedita e ristampe vendeva 800-900 mila copie al mese, che è una cosa incredibile a pensarla incredibile, ad oggi. Sì. Infatti, guarda, adesso con la crisi delle edicole è uno scenario impensabile. No, comunque io ti dico, personalmente ero in giro in quegli anni, ero molto piccolo, sono mai riuscito a leggere Gordon Lee, che al di là delle somiglianze che può avere con Dylan Dog, sì, ne avevo sempre sentito parlare come di un'opera più scanzonata nello spirito di Dylan Dog, che sì, molto certo, ironico. E più, infatti, sì. Cioè, sono entrambi ironiche, perché anche Dylan Dog non si prende sul serio. Però quella di Dylan Dog è un'ironia diversa, così come è diverso Gianfranco da Tiziano, insomma. Comunque queste specificità vanno sottolineate, perché in quel periodo, qualche anno dopo, uscirono delle cose che erano proprio dei clone spudorati. Tipo Gordon Link è precedente a queste opere, che poi diciamo erano delle imitazioni, ma proprio di basso livello, senza investimento, quindi con sceneggiatori magari senza personalità, disegnatori magari praticamente esordienti, costretti a disegnare velocissimamente e quindi con risultati molto mediocri. Infatti di tutti questi non si ricorda, e nessuno è stato chiamato da Bonelli per scrivere per lui. Una cosa che si collega con le riflessioni che stavi facendo adesso, Roberto, ha a che fare, no? Manfredi, in parte insomma ne parlavamo, come fumettista ha lavorato per praticamente 30 anni soprattutto sul fumetto seriale di lunga durata, no? Più raramente su miniserie, eccetto ovviamente il Diario di Adelaide, che è stata la seconda, e nel 2022 la sua prima graphic novel. Avevate parlato, e anche penso a questa lunga conversazione che avete fatto di 8 ore nella sua casa in Valtellina, che è ancora inedita, sulle croniche difficoltà del mercato fumettistico, e che ne pensava Manfredi, diciamo, del declino del formato seriale, della scomparsa possibile del fumetto popolare, che ha spopolato, lo dicevi tu proprio anche citando i dati di Dylan Dog, per decenni in Italia, ma se poi pensiamo a Tex andiamo anche più indietro nel tempo. Sì, ovviamente se ne parla, e probabilmente è una crisi, credo, irreversibile, cioè purtroppo i tempi cambiano, i consumi cambiano, e anche Gianfranco diceva che praticamente mentre una volta, non so, ma questo è un dato di fatto, c'era magari un solo canale televisivo, due canali televisivi che facevano magari trasmissioni soltanto magari il pomeriggio, magari in bianco e nero, eccetera, quindi il fumetto rappresentava una delle poche occasioni di svago. svago. Adesso ci sono i social. Sì, ci sono i social, ma non solo, poi comunque l'intrattenimento serie. Viene dalle serie televisive, ce ne sono tutte le piattaforme, ognuno neanche volendo riesce ad avere tutto, hai tutto così disponibile a prezzi fra l'altro bassissimi, insomma, non solo l'abbonamento a Prime poche decine di euro ti permette di avere una library immensa e quindi e quindi le edicole chiudono, perché poi la crisi non è solo del fumetto, la crisi è dei quotidiani. Quando io ero ragazzo praticamente Repubblica e Corriere della Sera facevano gara a superarsi e veleggiavano intorno al milione di copie ciascuno, no? Quando è uscito il venerdì di Repubblica è stato un caso editoriale eccetera. Oggi sopravvivono a malapena. La Sera è l'unico che riesce a stare sopra le 100.000 copie, ma Repubblica ormai cos'è, intorno a 60.000 copie, quindi per non parlare delle riviste, Sorrisi e Canzoni, TV vendeva 1,5 milioni di copie, Famiglia Cristiana idem, adesso quasi non ci sono più, quindi secondo me è inarrestabile. La Bonelli calcola perdite comunque di lettori, secondo loro, dovute alla chiusura delle edicole del 5% l'anno. Di questo passo chi sopravviverà? Probabilmente solo Tex, che è uno zoccolo di affezionati ancora duro, che resiste. Tex supera le 130.000 copie. Fra l'altro, ecco, Gianfranco Manfredi ha scritto anche molte storie di Tex. Fra l'altro, questo mese è uscito sul Tex inedito la prima parte di una storia di Gianfranco disegnata da Gomez. Quindi, fra l'altro, c'è anche un bel editoriale in cui in cui viene ricordato Gianfranco, eccetera. Perché la Bonelli comunque, infatti lui è stato molto contento di questo, anche nel momento della malattia è stata molto vicina a Gianfranco, infatti lui che per un periodo non collaborava più con la Bonelli ha ripreso, infatti usciranno prossimamente diverse sue storie, ad esempio di Dylan Dog, dove è stato chiamato di nuovo a collaborare, sì, perché Barbara Baraldi voleva comunque che la serie tornasse un po' al passato e quindi ha chiesto ai grandi autori che avevano collaborato nel passato di ritornare a scrivere storie. Allora, quindi, Roberto, per concludere telegraficamente, abbiamo cominciato chiedendoti del Manfredi cantautore, non abbiamo citato grandi opere di Manfredi, Magico Vento, Volto Nascosto. Tu cosa consigli, tu cosa apprezzi di più del Manfredi autore, della sua opera fumettistica, nome solo, e cosa consiglieresti a un neofita invece per entrare nel mondo fumettistico di Gianfranco Manfredi? Ma come domanda, ovviamente consiglio di leggere il diario di Adelaide, perché comunque è la sua ultima opera importante a cui lui ha lavorato tanto, ed effettivamente per documentazione eccetera è veramente diciamo un capolavoro, non si dovrebbero usare queste parole, ma il risultato è obiettivamente questo. E poi comunque ogni opera di Gianfranco riesce a trasmettere in qualche modo la sua personalità. Se anche uno legge il suo Tex, si accorge che è il Tex di Gianfranco Manfredi, perché comunque c'è sempre un substrato politico che magari anche giustamente altri autori hanno tralasciato, anzi forse è stato inventato da Gianfranco, la storia, per dire, sullo sfruttamento dell'acqua, eccetera, e di una modernità. Ha lasciato anche spiazzato qualcuno perché diceva ma Tex non è così. Beh, Tex, a secondo di chi lo scrive, è molto diverso. Certo, se il Tex di Gianluigi Bonelli è uno, praticamente è un eroe tutto d'un pezzo, monolitico, il Tex di Sergio Bonelli, Guido Noglitta, è un personaggio pieno di dubbi e di contraddizioni. Quello di Nizzi è un personaggio che si prende anche sicuro, ma anche ironico, eccetera. E quello di Gianfranco Manfredi ha questa vena politica. Sì, lui l'ha sempre avuta, certe volte quasi un po' nel culto del passato, quando dice: se c'è uno che assalta, che attacca il treno, la ferrovia, io sono con lui, no? Quindi che è quasi, no? Però lui era davvero così. Sì, sì. Quindi... Ascolta, Roberto, grazie davvero di averci accompagnato, è stato molto bello parlare con te, e ci hai raccontato tante cose, tanti aneddoti e varie anticipazioni che immagino che i fan di Manfredi, i fan del fumetto, seguiranno con attenzione nei prossimi mesi e l'anno prossimo. Roberto Guarino di Alla Galla, in bocca al lupo per tutto e un grande abbraccio. Grazie, ciao a tutti. Nessun mago rivela il suo trucco, ma sappiamo lo stesso che c'è. Noi vediamo accadere di tutto e nessuno ci spiega il perché. L'America regola i conti, il dubbio ormai non c'è più. Hanno fatto gli appalti dei ponti prima ancora di sbatterli giù. Sarà il trionfo della civiltà. Però mi consenta, un sospetto ce l'ho. Tempeste di sabbia e di fuoco, fuoco amico che l'altro non c'è. Han vissuto momenti di gloria, ma il nemico non si sa dov'è. Bin Laden disdetta è fuggito e ferve la caccia a Saddam. Ma se è vero che c'ha sette sosia, uno almeno lo volete beccar? Ferma! Questo non va bene. Perché, maestro? Perché se lo prendono quando poi esce il disco. Giusto, allora faccio la variante che non si sa mai. Vadi. Quest'oggi lo hanno arrestato, dormiva a casa dei suoi, l'hanno subito interrogato. Saddam, dove stanno gli altri sei? Sarà. Qui qualcuno c'è sta coglionà. Però, state allegri, petrolio a go-go! A Baghdad sono infine arrivati con il settimo cavalleria, ma gli indiani non li hanno trovati, questa volta erano già andati via. Codardi si sono nascosti, nel dubbio io sparo dell'A. Che me frega se so giornalisti, non lo vedi che sto a lavorare. Sarà una tragica fatalità. Però mi fa schifo il brutality show. Si abitua a non credere a niente, senza un briciolo di verità. Condannati a una vita indecente, come un numero di varietà. Per farci sentire al sicuro, ha messo le gabbie in città. Ci hanno preso le impronte del culo per difendere la libertà. Sarà. Non conosco i figli di Allah. Però. De chi sei figlio, te ce lo so. E beh, questo è un brano molto bello che ci riporta a un Manfredi più recente, di un po' più di 20 anni fa, era il 2003, Banzo, no? E era all'interno di un progetto, qui c'era anche la collaborazione di Patrizio Fariselli in questa Sarà Però, legato alla mobilitazione internazionale contro la guerra in Iraq. I riferimenti erano molto chiari nel testo. Sembra del 2003, quindi si parla di queste cose qui. Bin Laden, Saddam, il sosia di Saddam, ho avuto un flashback incredibile. Ed era appunto sì, questa compilation danni collaterali per raccogliere fondi in favore di Emergency, alla quale avevano collaborato molte figure a titolo gratuito: Finardi, gli Schiantos, Teresa De Sio, Gino Paoli, Lella Costa, appunto Patrizio Fariselli, tastierista, ex tastierista degli Ara, che collabora. Ha collaborato con Manfredi a due brani, questo e una cover dello scozzese Dougie MacLean, intitolata in originale War, nella versione di Manfredi e Fariselli che ci hanno fatto, si mantiene abbastanza fedele come testo. Questo brano ci riporta a un'epoca che sembra lontana ed è anche interessante perché è lontano dalla fase musicale più intensa di Manfredi, però appunto sì, dimostra che non aveva dimenticato affatto come scrivere canzoni di grande efficacia e ironia parlando di cose drammatiche con una leggerezza quasi soprannaturale. Eh sì, e adesso ritorniamo indietro nel tempo al 77, terzo album di Manfredi, Zombie di tutto il mondo unitevi, e da lì ci andiamo ad ascoltare questa Dagli Appennini alle Bande. Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela. Difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva. E saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo i colpi. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino. Ora pare che il suo nome sia teppista, ricchettone, criminale, provocatore. Pare che ami travestirsi da sinistra, ma sia un docile strumento del terrore. E lo beccano ogni tanto che si buca o maneggia un po' nervoso una pistola o che lancia da una moto sempre in fuga una molotov sull'uscio della scuola. Sociologo il cretino, e parlano di lui e scrivono di lui, ma lui rimane sempre clandestino. E si dice se ci fosse più lavoro, se il quartiere somigliasse meno a un lager, non farebbe certo il cercatore d'oro, assalendo il fattorino delle paghe. Ma è la merce che c'è entrata nei polmoni e ci dà il suo ritmo di respirazione. Il lavoro non ci rende mica buoni, ci fa cose che poi chiamano persone. Di lui e che il nostro sogno è ancora piccolino. Se parlano di lui e scrivono di lui e che il nostro io ci resta clandestino. Se parlano di lui e scrivono di lui e il nostro sogno è ancora piccolino. E parlano di lui e cantano di lui e il nostro io ci resta clandestino. E parlano di lui e scrivono di lui. Vabbè, qui pieno 77, Banzo Manfredi coglieva proprio, no, lo spirito dei tempi e insomma ci dà una sintesi quasi perfetta del movimento del 77. Sì, in tempo reale e proprio un twist niente male, perché sfrutta come sfondo, diciamo, l'immaginario del libro Cuore, che è quanto di più lontano dallo spirito 77 che si possa immaginare. Questo brano tratto da Zombie di tutto il mondo, Unitevi, un disco epocale, peraltro un titolo che mi incuriosisce, perché all'epoca la figura dello zombie non era attestata come lo è adesso, era già uscito da molti anni L'alba dei morti viventi, ma non era ancora uscito Zombie, sempre di Romero, quindi non so come si vedesse la figura dello zombie allora. E parlando brevemente di questo disco, possiamo dire che un'importante figura alle musiche c'è, cioè la firma di Claudio Dentes, un musicista che poi è diventato più noto al grande pubblico con uno pseudonimo, perché è Lothar Bolivecic, che è stato produttore per tanti anni di Elio e Storie Tese. Ecco. Sì, sì. Noi rimaniamo in quegli anni per gli ultimi, l'ultimo brano, il penultimo brano, il 78, perché usciva in quell'anno Biberon di Manfredi, una collaborazione con Ricky Gianco, ne abbiamo parlato, le collaborazioni di Manfredi sono state tantissime, testi scritti per altri, collaborazioni come Ricky Gianco, Arcimboldi in quel 78 con la bellissima Compagno sì, Compagno no, Compagno un cazzo, ma in quell'anno collabora anche con la PFM per questa Svita alla vita, 1978, dall'album Passepartout della premiata Forneria Marconi. Eccolo qui. Vivi, vivi la vita, vivi la vita come vuoi tu. Svita, svita le viti, svita le viti della TV. Voglio sentirti umida, voglio sentire le tue carezze. Vivi, vivi la vita, non abitarti alla tua virtù. Cova, cova le uova di un'altra storia, di un'altra età. Cova, gatta, ci cova, ma chi la trova quest'altra età? Voglio fugare gli angoli, scoprire i covi della tua pelle. Voglio cambiare i mobili, in questo ordine non mi trovo già più. Passepartout era stato l'ottavo disco della PFM che segnava tra l'altro il ritorno, l'avete sentito, alla lingua italiana dopo alcuni dischi in inglese, ma anche la transizione è evidente, no, Banzo, in questo brano dal classico progressive alla canzone d'autore in chiave rock dei lavori successivi. Sarebbe dovuto anche uscire una versione in inglese con i testi tradotti addirittura rielaborati da Frank Zappa, ma poi insomma sembra che Zappa fosse stato troppo impegnato. Altro dato importante, la copertina di questo disco era una disegnata da Andrea Pazienza. Ancora torniamo alla relazione tra canzone, musica e fumetto. E dicevamo prima, tanti sono stati i brani scritti da Manfredi per altri interpreti, Ricky Gianco nominavamo, ma anche Giorgio Faletti, addirittura Massimo Boldi, senza parlare di Mina, Mia Martini, Gino Paoli o i Gang. Ma per chiudere, Banzo, in questa rapida carrellata su una vita davvero poliedrica, le collaborazioni anche con il cinema, e ci sentiamo una canzone che è stata una colonna sonora. Esatto, perché nel 79 Manfredi comincia la collaborazione con il cinema sia in veste di sceneggiatore che in veste di attore, e inizia un sodalizio con il regista Salvatore Samperi che dura tre film fra il 79 appunto e l'85. E poteva non aver scritto anche le musiche? Sì, in effetti lo fa, perché ancora una volta in collaborazione con Ricky Gianco, un sodalizio inossidabile, scrive la colonna sonora del film, che lo ricordiamo è ambientato nella Padova del 1959, quindi a 20 anni di distanza celebra l'impatto dell'immaginario del rock and roll primigenio, che in Italia arrivò qualche annetto dopo ovviamente rispetto agli States, e parla anche un po' delle convenzioni della vita di provincia nell'Italia di quel periodo. Quindi il rock and roll aveva ovviamente è una forza molto dirompente in un contesto sociale così conservatore, ecco. E con questo brano noi ci salutiamo. Liquirizia, dal film intitolato appunto Liquirizia con la I del 1979, Gianfranco Manfredi ci ha accompagnato quest'oggi, niente di più niente di meno. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Zibaldone. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván. È un dettaglio, ma il genio di Manfredi si vede anche dalla capacità di riuscire a mettere nella stessa canzone Tex e Stalin, ecco, come abbiamo sentito prima. Liquirizia, ciao a tutti, buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore. A guardarti ci si vizia, bastoncino di caucciù, brillantina non nemmeno più, liquirizia mi dai tu, e mi resti tra le dita. Liquirizia sei squisita, liquirizia sulle labbra tue, liquirizia sulle mie, liquirizia dentro gli occhi tuoi, liquirizia mi se vuoi. Honey, liquorice, non sei mica una roba che si mastica e si butta via. Tu mi entri nell'animo, tu mi entri nel pensiero, tu mi lasci tutto nero. Tu per me sei liquirizia, dolce amara scendi giù, come sei appiccicaticcia, non mi lascerai mai. lascerai mai più.